America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We are coming on the air because there has been a major train derailment south of Seattle, about 40 miles south of Seattle. Amtrak train 501 derailed in Washington State. You see that car right there. Troppi deragliamenti di treni in America, almeno 4 gravi negli ultimi anni. Questo vuol dire che le infrastrutture non reggono davvero più. Eppure, pensate, ieri a Washington State è toccato a un treno nuovissimo e velocissimo. Pensate al suo debutto nella tratta fra Portland e Seattle. Alcuni vagoni sono precipitati nella strada statale sotto il cavalcavia dove è avvenuto il deragliamento, investendo le vetture di passaggio. Ieri il presidente ha anche annunciato i capisaldi per la sicurezza nazionale, per la sua dottrina: forza dell'esercito, protezione dei confini, lotta al terrorismo, solidità dell'economia. Siamo comunque al Trump countdown per questo 2017, countdown anche per questo programma, per America 24, che, come dicevo ieri, chiuderà con la fine di dicembre. Dunque, in questi giorni che restano, ascolterò alcuni ospiti che ho avuto nel corso degli anni passati. Uno di questi è Federico Rampini, amico e collega, con cui voglio fare un bilancio proprio su un anno di Trump, personalità camaleontica, imprevedibile, scontrosa. Federico, corrispondente di Repubblica, ha esplorato a fondo questo mondo Trump, al punto da farne addirittura uno spettacolo teatrale. Si chiama Trump Blues e debutterà, adesso, fra un paio di giorni, a Milano. Buongiorno, Federico. Buongiorno. Allora, riveliamo, forse lo sanno già, sei anche attore, drammaturgo, hai scritto tu questa opera, la porti in giro a teatro. È un'opera collettiva, il vero attore Jacopo Rampini è mio figlio, io sono più una voce narrante, un commentatore, un osservatore in scena, poi c'è tanta musica che ho rubato letteralmente da Donald Trump, così come lui la rubava agli autori, perché nei comizi, come tu ti ricorderai perché eravamo insieme, lui sparava queste canzoni dei Rolling Stones, di Bob Dylan. Ho ripreso esattamente le colonne sonore dei suoi comizi. Ecco, scusa qui, però io devo dire, Federico, devo lamentarmi e devo così esprimere probabilmente semplicemente invidia pura, però una lamentela, perché trovo che ci sia una profonda ingiustizia in tutto questo. Insomma, io, forse i miei ascoltatori non lo sanno neanche, ma molti anni fa ho fatto la scuola di recitazione qui a New York, ho studiato al Lee Strasberg Institute, HB Studios, poi suono la chitarra. Insomma, io vorrei essere attore e non lo sono. E tu, invece, che non credo tu abbia fatto la scuola di recitazione, sei attore. Ma c'è un'ingiustizia in tutto questo, secondo te, o no? Mi assumi? No, dunque, questo è un caso in cui i padri rubano ai figli, perché è mio figlio quello che ha fatto la scuola di recitazione. Però ti assicuro che ti allarghiamo le braccia, sei benvenuto tra noi. Lo spettacolo Trump Blues è un'improvvisazione continua. Ogni sera succede qualcosa di nuovo sul palcoscenico. Se vuoi unirti a noi, la troupe può semplicemente allargarsi. Bene, allora, come testimoni i nostri numerosissimi ascoltatori, e per cui mi presenterò quando, a gennaio, alla fine di dicembre a Milano. Quando è che comincia? Milano 20, 21, 22 dicembre, Teatro Leonardo, via Ampere, vicino al Politecnico. Ecco, allora, non credo che sarò in Italia in quel periodo, però parliamo del tema Trump Blues. Chi è Trump, secondo te? È un personaggio che cerco di raccontare tridimensionale, non è tu quel personaggio in bianco e nero che troppo spesso vedono gli italiani, lo demonizzano, lo temono. Intanto dobbiamo rassegnarci ad averlo con noi per un po' di tempo, non credo nella favola lieto fine dell'impeachment veloce. Ecco perché tutti dicono impeachment, anch'io ricevo dei tweet, ogni tanto succede, non so, il Russia Gate. Allora è un passo in avanti verso l'impeachment? No, dico, perché l'impeachment è più complicato, in effetti, vero? Sì, allora intanto un po' è colpa dei nostri colleghi americani che gridano anche loro all'impeachment in modo irragionevole. L'impeachment è complicatissimo, ci vogliono delle maggioranze parlamentari qualificate che non ci sono in questo momento. Non c'è mai stato un impeachment che è arrivato a termine nella storia degli Stati Uniti. E poi è un po' anche una deformazione delle repubbliche parlamentari questo pensare che i governi cadono. Qui un governo non cade. Se dovesse mai cadere Trump, subentrerebbe il vicepresidente fino alla fine del mandato. Torniamo a Trump, personaggio complesso, aspetti positivi e negativi, perché noi tendiamo sempre, come dire, ad ascoltare o amplificare anche attraverso la stampa americana quelli più negativi. Ma tutti sanno che io ho una storia di sinistra e quindi non sono sospetto di essere un simpatizzante, però mi capita di dargli ragione, perché se sento che Trump attacca la Cina come una concorrente sleale nella globalizzazione, io sento da parte sua gli stessi argomenti che sono stati usati a suo tempo da Bernie Sanders, da un premio Nobel come Stiglitz. La globalizzazione così com'è non funziona, se lo dice Trump, per una volta ha ragione lui. Ecco, qualche altro aspetto della sua personalità. Quali sono i blues di Trump? Qual è il blues? Qual è la cosa che lo preoccupa? Lui cavalca dei temi come l'immigrazione, gli squilibri della società multietnica, che sono temi reali. Io ho viaggiato dentro il mondo della classe operaia, i metalmeccanici di Detroit, sono tornato di recente, ho fatto 9.000 chilometri attraverso quell'America profonda che lo ha eletto, e ci sono dei temi profondi, reali, che vanno capiti, non solo demonizzati. Ecco, Federico, tu sei diventato una celebrità, Crozza ti ha imitato. Qual è la tua reazione a questo fatto? Perché è un onore in fondo. Onore sicuramente, anche perché Crozza è un grande artista. Invidia tantissima perché riesce a sfoggiare delle bretelle molto più belle delle mie, e ancora nessuno mi ha detto chi è il suo fornitore. Ultima cosa, tu qui in fondo hai dato un quadro, come dire, neutro, distaccato di Trump. E io ti dico, forse lo saprai o non lo saprai, ma tu sei oggetto di un attacco continuo da una nostra collega, si chiama Maria Giovanna Maglie, con cui io lavorai molti anni fa in televisione, la quale scrive su Dagospia articoli in continuazione assolutamente pro Trump, ma pro Trump in modo, diciamo così, un po' tirato, un po' fake news, e ti tira in ballo dicendo che tu fai le fake news al contrario. Ma fin dall'inizio di questa presidenza io ho cercato di non farmi condizionare troppo dalle mie opinioni personali, e soprattutto ho intravisto dentro il fenomeno Trump dei temi che seguivo da tanto tempo: la paura del fondamentalismo islamico, il politically correct che a volte ha demonizzato certe angosce della classe operaia, del ceto medio bianco impoverito in questo paese. Sono tutti temi veri, e ho cercato di dargli spazio senza farmi travolgere dal orrore che ogni tanto Trump suscita in chi lo osserva da vicino. Insomma, i fatti del mondo passano e continueranno a passare per questa sponda atlantica, dove sorgono mille altri approfondimenti, idee, momenti di tensione forte, frontiere inesplorate. Scrivetemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre Federico Rampini, grande esperto, musicologo, quindi siamo anche fortunati. Federico, beh, deve essere una canzone però, attenzione, natalizia, nello spirito natalizio, quelle proprio tradizionali. E allora il più classico è White Christmas, nell'interpretazione caldissima di Nat King Cole. White Christmas, Nat King Cole. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!